Benvenuti a tutti! Sono Jack e oggi esploreremo un tema affascinante, come la natura ha ispirato una delle più grandi rivoluzioni tecnologiche del nostro tempo. Con noi c'è la dottoressa Sara Bianchi, esperta di machine learning. Sara, benvenuta! Grazie mille Jack, sono felice di essere qui oggi. Sara, iniziamo con una domanda che potrebbe sembrare semplice. Hai mai osservato come un bambino impara a riconoscere i volti? È una domanda molto interessante, Jack. In effetti, il modo in cui un bambino impara a riconoscere i volti è sorprendentemente simile ai principi base del machine learning. Davvero? Puoi spiegarci meglio questa connessione? Certo. Proprio come un bambino inizia a riconoscere pattern nei volti, gli occhi, il naso, la bocca, le prime reti neurali artificiali furono progettate per riconoscere pattern simili nei dati. Mi viene in mente il famoso esperimento degli anatroccoli di Conrad Lorenz. Ne hai sentito parlare? Assolutamente. È un esempio perfetto di apprendimento naturale. Lorenz scoprì che gli anatroccoli appena nati seguivano il primo oggetto in movimento che vedevano, assumendo che fosse la loro madre. Questo fenomeno, chiamato imprinting, è un esempio primitivo di apprendimento automatico in natura. È affascinante come la natura abbia ispirato la tecnologia. Ma come siamo passati dagli anatroccoli alle moderne reti neurali? Il passaggio è stato graduale ma rivoluzionario. Tutto iniziò nel 1957 con Frank Rosenblatt e il suo percettrone, il primo modello matematico che cercava di imitare il modo in cui i neuroni cerebrali elaborano le informazioni. Il percettrone, puoi spiegarcelo in termini semplici? Immagina un bambino che sta imparando a distinguere i colori. All'inizio commette errori, ma piano piano, attraverso la correzione, impara a identificarli correttamente. Il percettrone funziona in modo simile. Quindi è come un processo di apprendimento attraverso tentativi ed errori? Esattamente. Ma il percettrone aveva delle limitazioni interessanti. Per esempio, non riusciva a risolvere il famoso problema XOR. XOR? Sembra un termine piuttosto tecnico. Lo semplifico con un esempio pratico. Immagina di voler insegnare a una macchina a riconoscere quando solo uno tra due interruttori è acceso, ma non quando sono entrambi accesi o entrambi spenti. Il percettrone non riusciva a farlo. Ah, ora è più chiaro. E come hanno superato questo limite? Qui entra in gioco la matematica. Le reti neurali profonde, che sono strutture informative ispirate al cervello umano, hanno risolto questi limiti aggiungendo più livelli di elaborazione. Mi ricorda un po' come il nostro cervello elabora le informazioni a diversi livelli. Precisamente. E sai qual è la parte più interessante? La matematica che sta dietro a tutto questo. Per esempio, il teorema di Bayes. Oh, il famoso teorema di Bayes. Ho sentito dire che è fondamentale per il machine learning, ma molti lo trovano difficile da capire. In realtà possiamo spiegarlo con un esempio quotidiano. Pensiamo alla diagnosi medica. Se hai determinati sintomi, qual è la probabilità di avere una specifica malattia? Il teorema di Bayes ci aiuta a calcolare proprio questo. Sara, questo esempio della diagnosi medica è molto interessante. Mi fa pensare a tutte le applicazioni pratiche del machine learning oggi. Infatti, le applicazioni sono vastissime. Prendiamo ad esempio il mercato immobiliare. Oggi possiamo prevedere i prezzi delle case analizzando centinaia di variabili simultaneamente. Come funziona esattamente questo processo? Immagina di dover valutare una casa. Un agente immobiliare esperto considera la zona, i metri quadri, il numero di stanze. Una rete neurale fa lo stesso, ma può analizzare molti più fattori contemporaneamente e trovare correlazioni che potrebbero sfuggire all'occhio umano. È affascinante come questi concetti matematici si traducano in applicazioni così concrete. Esatto, e sai qual è la parte più interessante? La matematica dietro questi sistemi non è poi così diversa da quella del vecchio percettrone. È solo diventata più sofisticata. Mi viene in mente il problema di Monty Hall, che spesso usi come esempio. Potresti spiegarlo ai nostri ascoltatori? Certo. Immagina di essere in un quiz televisivo. Ci sono tre porte, dietro una c'è un'auto, dietro le altre due delle capre. Scegli una porta, diciamo la numero uno. Il presentatore, che sa dov'è l'auto, apre una delle altre due porte, mostrando una capra. Poi ti chiede, vuoi cambiare la tua scelta? E la risposta non è così intuitiva, vero? Proprio così. La matematica ci dice che conviene sempre cambiare, perché così raddoppi le probabilità di vincere. Questo è un esempio perfetto di come la probabilità possa sfidare la nostra intuizione. Questo mi fa pensare, come possiamo essere sicuri che le decisioni prese dalle AI siano affidabili? Ottima domanda. È qui che entra in gioco il concetto di apprendimento supervisionato. Le reti neurali vengono addestrate su dati verificati, un po' come quando un insegnante corregge gli esercizi di uno studente. Quindi c'è sempre un elemento di supervisione umana? Nella maggior parte dei casi sì, almeno nella fase di addestramento. È fondamentale per garantire che i sistemi di AI prendano decisioni etiche e accurate. Sara, guardando al futuro, come pensi che l'intelligenza artificiale influenzerà la nostra vita quotidiana? Vedi, Jack, proprio come gli anatroccoli di Lorenz che abbiamo menzionato all'inizio, l'IA sta attraversando una fase di imprinting con la società umana. Sta imparando da noi, ma in modo molto più veloce e complesso. Interessante questo parallelo con l'inizio della nostra conversazione. Esatto. E come abbiamo visto con l'esempio del mercato immobiliare, l'IA non sostituirà gli esperti umani, ma li aiuterà a prendere decisioni più informate. Quindi è più uno strumento di potenziamento che di sostituzione? Precisamente. Pensa alla probabilità bayesiana che abbiamo discusso. L'IA può elaborare enormi quantità di dati, ma ha bisogno dell'intuizione e dell'esperienza umana per dare un senso ai risultati. Mi sembra di capire che il futuro sia più nella collaborazione che nella competizione tra umani e macchine. Assolutamente. E la chiave sta nella comprensione dei principi fondamentali che abbiamo discusso oggi, dall'apprendimento supervisionato alle reti neurali, tutto si basa sulla collaborazione tra intelligenza umana e artificiale. C'è qualche consiglio che daresti ai nostri ascoltatori che vogliono approfondire questi temi? Il mio consiglio principale è di non farsi intimidire dalla matematica. Come abbiamo visto oggi, anche i concetti più complessi possono essere compresi attraverso analogie con la vita quotidiana. Proprio come l'esempio degli interruttori per spiegare il problema XOR. Esattamente. E ricordate che ogni grande sviluppo tecnologico è partito dall'osservazione della natura. Proprio come gli anatroccoli di Lorenz. Sara, è stato un viaggio affascinante dalla natura all'intelligenza artificiale. Grazie per averci guidato in questo percorso. Grazie a te, Jack. È stato un piacere condividere queste conoscenze con i vostri ascoltatori. E grazie a tutti voi che ci avete seguito. Ricordate, il futuro dell'intelligenza artificiale è nelle nostre mani, ed è un futuro di collaborazione e crescita reciproca. Alla prossima puntata!